Dora Palumbo. Bologna questi anni si è posto obiettivi ambiziosi da raggiungere e infatti nel 2019 ha assunto la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale, con la quale ha dichiarato che nel 2030 avremo zero emissioni di CO2 equivalente nella città metropolitana, con l'obiettivo intermedio di ridurre la CO2 del 50% entro il 2025. È una proposta che è partita dai movimenti ambientali che si stanno affermando, come ad esempio Extinction Rebellion e Friday for Future. E per affrontare la crisi climatica e per proteggere quindi la nostra salute bisogna intervenire sulla mobilità. È risaputo che il traffico è uno dei fattori responsabili dell'inquinamento, quindi offrire una mobilità a basso impatto e incentivare il trasporto non motorizzato. È importante completare e rendere efficiente il servizio ferroviario metropolitano, una vera metropolitana di superficie che ha il nostro territorio, che se valorizzata potrebbe essere importante per la città metropolitana e per altri. Anche oltre. Alcuni quartieri subiscono anche un forte inquinamento acustico a causa della presenza di un aeroporto che cresce a dismisura, e nel 2019 il Marconi, con oltre 9 milioni di passeggeri, è risultato essere il settimo aeroporto italiano per traffico. Bisognerebbe cominciare a diminuire il traffico aereo, non è una competenza comunale, ma con il governo bisognerebbe cominciare a interloquire per eliminare quei voli su tratte percorribili in treno in 2 ore e mezzo. E poi è indispensabile arrestare il consumo di suolo. Il suolo ha delle funzioni molto importanti, che va dalla produzione di alimenti alla regolazione del clima, allo stoccaggio del carbonio, importante per il controllo della qualità dell'acqua e protegge anche dai fenomeni estremi. È impressionante che ogni secondo si perdono quasi 2 metri quadrati di suolo. Tra le zone maggiormente interessate c'è proprio la nostra Bologna, quindi è importante arrestare il consumo di suolo. Inoltre, per combattere l'inquinamento bisogna intensificare il verde urbano e fare una buona manutenzione dell'esistente.